Incontri di Gianfranco Fabi. Tutti gli uomini siano fratelli, come le note dell'Inno alla Gioia di Beethoven, della nona sinfonia di Beethoven. Iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Mariella Enoch. Grazie. Mariella Enoch, vicepresidente della Fondazione Caripo, fino all'inizio di luglio era stata presidente di Confindustria Piemonte, imprenditrice e altre cose di cui parleremo finora, parleremo ovviamente durante il nostro programma, ma cominciamo dall'Inno alla Gioia. L'Inno alla Gioia, che cosa le ricorda, come mai ha scelto questo brano? L'Inno alla Gioia per me è veramente un inno alla vita, alla voglia di essere, alla voglia di fare, alla voglia di prevedere un futuro. Questo è tipico dell'imprenditore ed è tipico anche di chi come me si dedica attraverso la fondazione o altre iniziative alla filantropia. E quindi ritrovo nell'Inno alla Gioia questi sentimenti che io sento fortemente. Quindi un impegno, quello che viene chiamato la responsabilità sociale dell'impresa e quindi anche dell'imprenditore, sì, che deve essere una responsabilità sociale che va al di là del profitto dell'azienda, che peraltro è indispensabile. È indispensabile il profitto proprio per poter avere responsabilità sociale. Le aziende che sono mal guidate, che non sono sufficientemente capitalizzate, che non innovano, che non formano il personale, sono purtroppo destinate a non stare sul mercato e quindi a non poter più esercitare il ruolo di responsabilità sociale. Ecco, lei come imprenditrice è impegnata nel campo della sanità, dell'assistenza della, sì, persona, quindi è già un campo che è vicino appunto ai bisogni della persona e riesce forse già in questo a conciliare queste esigenze. È un campo che è vicino alla persona, ma deve esserne anche nell'etica profonda, perché molte volte quando si parla di sanità e di socioassistenza si vedono anche casi di cattiva gestione delle risorse pubbliche, si vedono casi di inquinamento. E quindi fare l'imprenditore in questo settore è particolarmente responsabile e direi anche particolarmente difficile, perché noi utilizziamo in grande parte risorse del sistema sanitario nazionale, ne abbiamo una responsabilità molto forte, io lo sento in modo particolare, quindi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini che siano adeguate, tenendo conto che noi comunque siamo uno strumento di sanità privato, ma che per grande parte usa denaro pubblico, quindi doppia responsabilità. Quindi è un sistema integrato in cui pubblico e privato riescono però non solo a convivere, ma anche a sviluppare insieme una realtà che complessivamente è positiva. La sanità italiana è qualcosa che risponde alle esigenze, al di là di casi particolari. La sanità ovviamente italiana è un ottimo esempio di sanità. In questo momento noi riusciamo anche come privati a lavorare molto su iniziative di project financing, in modo da poter mettere capitale in strutture che il pubblico non potrebbe fare. Quindi aiutiamo anche la realizzazione di strutture nuove, di cui poi manteniamo la gestione per un certo numero di anni. E questo aiuta lo sviluppo, soprattutto nel settore dell'assistenza agli anziani, è un modello molto vivace. Nel settore della sanità privata, settore proprio delle case di cura, deve essere ancora un po' promosso e forse bisogna ancora capire meglio il ruolo che hanno queste strutture, che non deve essere soltanto un ruolo di appoggio vicariante e qualche volta non si capisce bene cosa fanno, ma dargli una missione molto definita nei territori in cui essi sono. Quindi ci vuole appunto questo equilibrio, questo, sì, sviluppo di un equilibrio tra pubblico e privato, di un sostegno in fondo reciproco in cui possono intervenire anche poi strutture a livello forse più di welfare che non sono né pubbliche né private, come le fondazioni bancarie, la Fondazione Caripo, che sono private, perché so che il Presidente Guzzetti ci tiene moltissimo a dire che assolutamente sono strutture, sì, di diritto privato, ma che però hanno un impegno, sì, che non si può non dire pubblico. Che però non entrano entrano mai là dove c'è business, quindi certo. Non entrano mai nel rapporto pubblico-privato come noi l'abbiamo inteso sino adesso, ma eventualmente in sistemi che sono sistemi di imprese sociali che non hanno finalità di profitto. Ma soprattutto Fondazione Cariplo interviene con progetti innovativi, cioè non finanzia semplicemente cose che già esistono e che hanno già il loro indirizzo. Per esempio, in questo momento noi non finanziamo nessuna struttura residenziale per anziani, ma stiamo studiando un tipo di assistenza leggera agli anziani, diciamo un po' borderline tra l'autosufficienza e la non autosufficienza, che è una fase molto delicata e che praticamente non gestisce nessuno se non con un'assistenza domiciliare che lascia scontenta la maggior parte degli utenti. Quindi ecco, noi stiamo preparando dei programmi in questo senso. Ecco, Fondazione Cariplo, che è una fondazione appunto di origine bancaria, sì, che poi adesso ha sviluppato, anche secondo le tendenze di tutte le fondazioni ex bancarie, una volontà, una presenza nell'ambito sociale, in cui proprio per tradizione c'è la Lombardia, ma c'è anche la provincia di Novara, perché e del VCO, sì, del Verbano Crusa Ossola, che tradizionalmente erano i luoghi della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Essendo certo, erede appunto della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, questa fondazione ha questa operatività in tutta la Lombardia, più Novara e VCO. Allora, come si caratterizza questo impegno? Ovviamente sottolineiamo un impegno che si aggiunge agli impegni di welfare, peraltro in cui lo Stato, il pubblico, riesce forse sempre meno ad essere presente, anche con iniziative innovative di questo tipo. Quindi già precisava delle iniziative per gli anziani e iniziative anche sul fronte dell'abitazione, sul fronte della vicinanza ai singoli territori. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni sui progetti, ad esempio, di housing sociale, che ritengo uno dei progetti più innovativi, che oggi è stato comunque assunto dalla Cassa Depositi e Prestiti, e molti nostri collaboratori proprio della Fondazione Housing Sociale sono passati come collaboratori della Cassa Depositi e Prestiti per portare avanti sul piano governativo questa specializzazione che noi abbiamo creato. Noi stiamo ancora procedendo soprattutto sul tema della gestione, perché costruire case di questo tipo può essere abbastanza facile, è molto più complicato decidere a chi si affida la gestione, e quindi intendiamo affidarla soprattutto qui sì al privato sociale, fare in modo che ci sia questa redditività etica per chi ha investito nei fondi, che sia però una redditività costante. Quindi c'è anche un accompagnamento per le persone che vanno in questa abitazione ad essere responsabilizzati sul fatto che non sono in una struttura di beneficenza, ma sono in una struttura che può anche diventare loro, ma di cui hanno la responsabilità sia del pagamento dell'affitto, sia della manutenzione, sia di tutti i beni accessori che nel progetto di housing sociale ci sono. Quindi ecco, un intervento che va oltre le famose case popolari, certo, che va oltre appunto il tradizionale aiuto alle posizioni più disagiate. In questo senso una fondazione come la Fondazione Cariplo può avere anche un ruolo, diciamo così, di professionalizzazione del volontariato, di mettere insieme, di valorizzare anche in senso professionale queste realtà che ci sono molto numerose in Italia di volontariato? Direi che questa è una delle missioni che stiamo veramente un po' compiendo, perché nel momento in cui noi non finanziamo solo la singola associazione che è un buon progetto, ma le facciamo partecipare a un bando, possibilmente più associazioni insieme, noi sviluppiamo in loro il concetto della professionalità. Perché un'azienda può non fare utili per statuto, ma questo non vuole dire meglio, può non devolvere agli azionisti gli utili, ma deve sempre fare utili. E questo anche dal volontariato deve essere capito. Cioè loro devono essere in grado di autosostenersi ad un certo punto, quindi trovare le risorse per autosostenersi, fare i progetti che hanno un futuro e che poi possono dare autonomia alle persone di cui loro si occupano. Un'associazione che pensa di fare assistenza a vita senza nessun tipo di promozione ha un concetto, secondo me, un po' passato e un po' vecchiotto dei servizi alla persona. Ecco, quindi anche una fondazione che ha come compito principale quello di elargire, di dare delle sovvenzioni, di dare degli aiuti, di dare quella che classicamente si chiamava beneficenza, adesso ha sempre di più anche un compito di accompagnare quello che fa, di verificare quello che concede e di in fondo dare della responsabilità e anche la necessità di dare un rendiconto, in fondo, certo, a quello che... Noi facciamo sempre delle valutazioni ex post che ci aiutano a capire, prima di tutto, se quei piani che abbiamo attuato sono piani validi e hanno davvero risposto a delle esigenze. E secondo, facciamo capire alle associazioni, agli enti a cui noi abbiamo erogato, come la nostra erogazione loro l'hanno usata. Quindi facciamo un passo in più. Finito il progetto, cerchiamo anche di verificare, appunto, con l'ente che ha ricevuto la nostra erogazione, come il loro progetto ha prodotto continuità, capacità di replica, capacità di innovazione. Questo è il modo col quale oggi lavoriamo. Quindi l'immagine di una fondazione che io chiamo un po' banco, ma quella, certo, in cui qualcuno portava una domanda e aveva una risposta, oggi è completamente cancellata. Ecco, quali sono i progetti a cui lei è stata particolarmente legata in questi ultimi anni, quelli che ha seguito con maggiore passione e con interesse? Ma io credo di averne seguiti, anche così nella veste di vicepresidente, molti. Sono abbastanza orgogliosa dei progetti che noi abbiamo fatto in paesi a basso sviluppo, perché Fondazione Cariplo era veramente molto legata ai territori e questa apertura risultava difficile, cioè si diceva Fondazione Cariplo deve erogare solo sul territorio, certo, lombardo e delle province. E abbiamo fatto un passo in avanti e non abbiamo più erogato a enti che operavano soltanto in quei paesi, ma abbiamo fatto un progetto. Abbiamo detto, prendiamo ad esempio in Uganda la regione del Nord Uganda, che è una delle regioni che ha subito di più il trauma della guerra, una guerra di cui si è parlato anche poco, e che oggi ha ancora moltissime persone che da anni vivono nei campi profughi, quindi generazioni che sono cresciute nei campi profughi. Bene, noi allora abbiamo messo insieme 6 ONG, ciascuna con una particolarità, le abbiamo fatte lavorare insieme, abbiamo erogato una cifra che andava divisa a secondo dei progetti e in 3 anni abbiamo portato in questa parte del Nord Uganda, quella veramente più complicata e difficile, abbiamo portato scuole, acqua, assistenza sanitaria, per esempio lì l'abbiamo legata alla Chor Hospital, che è un centro di grande riferimento, strade, microcredito, ma non in maniera a un'organizzazione all'altra, in una maniera veramente di rete, per cui una regione ha ritrovato globalmente un equilibrio. Quindi non ci sono stati più fortunati e meno fortunati in quella regione, perché le nostre risorse hanno potuto essere usate da tutti. Ecco, quindi nella logica di portare lo sviluppo, esatto, in queste regioni, evitando se possibile questi drammi dell'emigrazione e che poi dopo costano molto di più a, certo, livello anche economico, insomma. Quindi in questo non avete trovato delle opposizioni, delle polemiche, delle critiche, nell'andare oltre, diciamo, non quella che era la missione tradizionale, una fondazione legata al territorio, come ricordavo. Beh, l'abbiamo discussa nei nostri organi, dalla commissione centrale alle sottocommissioni al consiglio d'amministrazione, ed è stata valutata poi positivamente e soprattutto abbiamo cercato di portare poi a conoscenza di tutti i risultati che li abbiamo ottenuto. Io sono andata 2 volte a visitare questo posto, vedendo anche quello che noi inconcretamente riuscivamo a fare, ma le dirò che forse quello che io ho trovato molto positivo è stato far sì che delle ONG, che in genere tendono un po' a lavorare ognuna per proprio conto e a cercare di avere sempre più soldi una piuttosto che l'altra, invece hanno lavorato insieme. Questo a me è sembrato un grande valore futuro. Mi sembra importante anche sottolinearlo, abbiamo parlato in questa ultima parte appunto della responsabilità di Mariella Eno come vicepresidente della Fondazione Cariplo. Dobbiamo fermarci un attimo per l'importanza di notizie sul traffico, ma nella seconda parte parleremo anche degli altri aspetti della personalità o della professionalità di Mariella Eno, imprenditrice, tra l'altro ha vinto il premio Belisario negli anni scorsi, quindi anche quest'anno anche dell'imprenditoria femminile. Restate con noi, a tra poco.